volontà dipende con di te, sparsa di fior la chiama, udi addivene i canti sì, vede a fumar gli incensi, vede rapiti scesi di voluttà. Fiammo di quel Dio che a me